Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buona serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. La mail, la ricordo, è unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri. Se lo visiterete mi farà piacere, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore Online. Allora, ieri abbiamo cominciato a parlare di un fenomeno che sta cominciando nuovamente a preoccupare, diciamo così, chi ha il compito di prevenire, contrastare e investigare, diciamo, nel nostro paese, contro queste forme di criminalità organizzata e di illecito guadagno che ha mille volte in Italia. Uno di questi sembrava dimenticati, appunto. Parliamo del contrabbando di sigarette. Una volta era un contrabbando soprattutto domestico, o largamente domestico, lo ricordiamo. Addirittura c'erano dei paesi in cui, lo ricordo perché l'ho vissuto personalmente, io non fumo ma accompagnavo degli amici, e entrando in alcuni negozi si chiedeva un pacchetto di sigarette e si sentiva rispondere dal negoziante: ma vuole il pacchetto originale oppure la vuole di contrabbando? Accadevano anche questi paradossi in Italia. Ora quei tempi sembrano dimenticati, ma il contrabbando di sigarette no. Insiste sul nostro territorio, come si dice con un linguaggio burocratico. Allora, ieri ne abbiamo parlato con il generale Giambattista Urso, che è il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. Oggi abbiamo il piacere di avere il colonnello Nicola Sibilia, che è a capo del GICO della Guardia di Finanza a Trieste. Che cos'è il GICO? È il gruppo che ha il compito di contrastare la criminalità organizzata. Buongiorno colonnello Sibilia. Buongiorno a lei. Allora, io a questo punto, visto anche il suo ruolo, il GICO, poi noi ci siamo già sentiti in altre occasioni per le mie trasmissioni, le chiedo, sulla scia di quanto dicevamo ieri con il generale Urso: allora la criminalità organizzata ancora c'entra in questo contrabbando di sigarette? Ma sicuramente la criminalità organizzata ha ancora un ruolo importantissimo nel contrabbando di sigarette. E in questo caso però, questa volta, probabilmente in connessione con la criminalità organizzata dei paesi dell'est. Ecco, approfondiamo questo discorso che ieri abbiamo cominciato ad accennare con il generale Urso. Sì, in sostanza, e questo per noi forse è più semplice dirlo, perché trovandoci in una posizione geografica, quella di Trieste, che è rivolta verso l'est europeo, abbiamo una visione sicuramente del fenomeno molto approfondita. E quello che abbiamo notato è appunto un traffico di sigarette che viene organizzato nell'est europeo, quindi vi sono delle organizzazioni criminali che si provvedono al rifornimento, all'organizzazione del traffico, e che poi viene recepito o da organizzazioni criminali italiane, quindi anche dalla criminalità organizzata italiana, oppure da altri soggetti di questa stessa criminalità dell'est europeo che si trovano sul territorio nazionale. Ho capito, quindi diciamo c'è anche una criminalità che viene dall'estero. Ecco, ma i luoghi di produzione di questo contrabbando, di questi tabacchi di contrabbando, sono nell'est, sono altrove? Dove sono esattamente? Ma soprattutto noi come fornitori abbiamo individuato soprattutto dei fornitori che provengono dall'Ucraina. Quindi abbiamo individuato soprattutto un traffico che proviene dall'Ucraina e che poi, attraverso ramificazioni delle organizzazioni criminali dell'est europeo, passa attraverso la Polonia, passa attraverso la Romania per poi arrivare in Italia. Questi altri paesi, e quindi la criminalità polacca, la criminalità romena, si occupano soprattutto poi di organizzare il trasporto. Ho capito, organizzano il trasporto dunque di queste sigarette. Ecco, ma di che quantitativi parliamo, colonnello? Mi spiego, io leggendo anche le cronache locali, il Gazzettino piuttosto che il Piccolo di Trieste, o per tornare a ieri, il Corriere Adriatico di Ancona, leggo, come dire, delle notizie curiose. Ci sono i vecchi spalloni, magari, che vabbè, trasportavano valuta, però diciamo, usiamo questa terminologia, che portano pochi pacchetti, insomma sembra quasi per gli amici, e poi in realtà invece ci sono anche grandissimi quantitativi che vengono intercettati. Ecco, allora qual è la giusta dimensione? Ma sicuramente il traffico che proviene dall'est europeo è un traffico che si basa soprattutto su un flusso continuo e costante di mezzi con sigarette, quindi propendono per abbassare il quantitativo complessivo trasportato a favore di una frequenza maggiore, cioè il quantitativo viene suddiviso in più viaggi e quindi fatto viaggiare su ruote. E in questo senso naturalmente l'aspetto fondamentale, l'aspetto più importante per i trafficanti è quello di riuscire ad occultare nel modo migliore possibile le sigarette. Ecco, questo però implica che comunque c'è un grandissimo guadagno. Mi spiego, uno si aspetterebbe che per economie di scala di mercato fosse più facile far arrivare, ovviamente sto sparando per paradossi, una nave piena zeppa di stecche che poi prendono le strade più diverse, piuttosto che organizzare invece tanti piccoli camion o tante macchine che portano quantitativi molto più modesti. L'economia di mercato vorrebbe questo, invece in realtà no, lei ci sta dicendo che il flusso aumenta, però la quantità è piccola e modesta a volte, ma il guadagno c'è lo stesso. Sì, il guadagno c'è lo stesso perché, come abbiamo verificato in occasione di alcuni interventi repressivi, cioè quando siamo intervenuti proprio materialmente, cosa succede? Spesso e volentieri questi carichi, invece di arrivare ad altre grosse organizzazioni che poi li smistano attraverso quindi ulteriori successivi passaggi, spesso e volentieri arrivano sul luogo dove poi devono essere redistribuite e vengono redistribuite velocemente attraverso già piccoli dettaglianti che poi le smerciano e quindi il guadagno è immediato, no? Si passa dall'ingrosso direttamente alla minuta vendita. Ho capito, quindi tante piccole formichine insomma in colonna che portano la sigaretta laddove deve arrivare. Esatto, guardi, un caso esemplare è stato quello dell'anno scorso, durante il quale appunto un camion è arrivato in loco, nel luogo dove doveva smerciare le sigarette. Da questo camion poi, una volta arrivato in territorio italiano, sono sopraggiunti una serie di furgoni che hanno prelevato le sigarette, le hanno accantonate brevemente in un garage, questo nello spazio di una o due ore. E poi a questo garage sono affluiti tutta una serie di personaggi di etnie le più diverse che si occupavano di portar via le sigarette, che naturalmente complessivamente erano sulla tonnellata e mezzo, ma si preoccupavano di portar via le sigarette per poi rimetterle subito sul mercato anche in quantitativi di 100-200 stecche, quindi subito, ecco, per poi poterle rivendere. Ecco, però mi viene da pensare che 100-200 stecche siano per un consumo domestico, voglio dire il Trieste o la provincia, oppure sbaglio? No, si tratta di un consumo al dettaglio che viene fatto da soggetti che si preoccupano, si organizzano per venderle velocemente, ritornare al deposito, rivendere e ritornare al deposito. Cioè ho capito. Capisce? Un sistema abbastanza rapido, certo, di consumo del prodotto. Assolutamente, quindi per non lasciare tracce. Ecco, ma invece sentivamo ieri dal generale Urso che nel mercato domestico di queste sigarette rimane poco, mercato domestico intendo dire l'Italia, cioè è difficile che questi quantitativi poi vengano, se non sono consumati rapidamente sul posto, vengano poi smerciati in tutta Italia. Ed allora le domando, che strade prendono poi i grandi quantitativi che voi purtroppo non riuscite ad intercettare, quelli che ci accennava ieri il generale Urso, vale a dire il Nord Europa e l'Inghilterra segnatamente? Sì, assolutamente, i grossi quantitativi, le più grandi quantità sono dirette verso questi stati che lei ha appena menzionato. È vero invece che esiste però un mercato clandestino costituito dagli stessi soggetti dell'est europeo che risiedono in territorio italiano, soprattutto concentrato nelle grandi città italiane, no? In questi casi allora le sigarette anche di marche magari particolari, meno note, confluiscono appunto su questo mercato dove il consumatore ha una conoscenza diretta del prodotto, ha una conoscenza talvolta diretta del personaggio che si occupa di organizzare il traffico. Ho capito, quindi in buona sostanza, traducendolo con parole diciamo così più volgari, nel senso di comuni per i nostri radioascoltatori, vuol dire che se c'è un'etnia particolarmente forte nelle principali città italiane, è possibile, facile, è verosimile che questi si approvvigionino da persone che in maniera appunto furtiva, di contrabbando, vendono loro magari delle marche che nei loro paesi di origine sono noti. Esatto, esatto. Parliamo di danni economici. Qual è, secondo lei, il giro d'affari che avete stroncato o che stroncate solitamente in un anno tra imposte evase, danni per gli commercianti onesti? Ma si tratta sicuramente di decine di milioni di euro. Tenga conto che un pacchetto di sigarette che in Ucraina costa un euro viene poi rivenduto nel mercato clandestino, quindi non quello lecito, a circa 3 euro, quindi i guadagni sono enormi e naturalmente tolgono fette di mercato ai rivenditori autorizzati che subiscono naturalmente questa problematica. E diciamo che il dispositivo di vigilanza nostro qui in Friuli Venezia Giulia in questo senso ha raggiunto dei livelli altissimi. Basti pensare che dall'inizio del 2008 fino ai primi mesi del 2009 abbiamo già sequestrato circa 20 tonnellate di sigarette, abbiamo tratto in arresto 50 persone, 50 responsabili, abbiamo sequestrato 30 mezzi. Quindi insomma si tratta di numeri abbastanza interessanti. Io, colonnello, la ringrazio per il suo intervento, le auguro ovviamente buon lavoro, dico grazie in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.